Buonasera amici ascoltatori, la tela sonora con Giulietta Lachi e Gabriella T. e Genti Ancela in regia. Abbiamo anche Sam che sta coordinando il tutto. E, oggi è una giornata importante perché è la prima puntata di questo programma che, se vogliamo, è un po' la prosecuzione e un momento particolare di quello che è stato brussellando fino ad oggi. Giulietta è nuova, è con me in radio, è il primo giorno. Diciamo che entrambe ormai abbiamo fatto radio in momenti diversi, però siamo un po' emozionate perché comunque questo è un momento importante, perché dovete sapere che la tela sonora comunque è stato un programma che abbiamo pensato molto tempo fa e ci ha messo un po' per nascere, perché chiaramente lo spazio in radio non era disponibile al momento. Invece adesso, grazie a Sam e ai nostri amici di Radio Alma, finalmente abbiamo questo spazio così sonoro e vocale. Esattamente, quindi ogni venerdì dalle 8 alle 9 potrete seguire la tela sonora con poesia, poeti, suoni e evocazioni sonore. E il primo venerdì al mese seguiremo un progetto che è stato ideato da Anna Maria Farabi ed è intitolato Il filo rosso. Sì, certo, il filo rosso, sì, perché certo. Comunque il filo è comunque legato alla tela, al simbolo del ragno, della tela che viene tessuta con amore e con pazienza, ed è un momento importante perché, se vogliamo, è un po' una ricerca che mancava forse all'interno di Brussellando, perché non c'erano proprio i tempi. Una ricerca più approfondita sul valore della parola che si vuole dare, quindi un lavoro più scolpito, più profondo, e allo stesso tempo anche un lavoro che faremo sul sonoro, perché non ci sarà soltanto il filo rosso, ci saranno anche altre serate che andranno un po' a completare quello che è il simbolo della tela sonora. Anna Maria Farabi, introduco, anche se spesso abbiamo parlato di lei, poetessa, io l'ho conosciuta per motivi diversi, soprattutto perché la prima volta ho letto alcune sue poesie, e tratte poi da quella che è diventato La Magnifica Bestia, poesie erotiche, poesie anche comunque molto, non vorrei adesso banalizzare con questo termine erotismo, poesie molto profonde che incentrate un po' sulla figura della donna, ma anche sulla figura della terra, e quindi questa donna molto, molto terrena, molto, molto con le radici affondate nel terreno, molto profonda e quindi molto significativa. Una poesia difficile, avremo occasione di avere Anna Maria in radio più tardi. Comunque Anna Maria sarà sempre con noi perché il filo rosso è stato ideato da lei ed è preparato da lei. Quindi stasera, infatti, quindi ogni primo venerdì del mese, normalmente questo mese è un po' speciale perché sì, è il primo, seguiremo il filo rosso di Anna Maria Farabi. Però forse dovremmo, Daniela, fare un passo indietro, sì, prima di tutto, e spiegare un po' cos'è questa tela sonora, perché è vero che c'è già stata, è già iniziata ad esistere, a espandersi, però forse potremmo spiegare un po' meglio da dove è nata questa idea e in quale modo, diciamo. Mi dai spazio libero, vado? Sì. Diciamo che per essere non tediare i nostri amici che hanno una pazienza infinita, io un po' di anni fa partecipai a una danza particolare, una danza sciamanica, e alla fine di questa danza, normalmente che dura svariati giorni, dal momento che si osserva un digiuno molto ferreo, si hanno, adesso non voglio dire, ma si hanno delle visioni, anche perché è un cammino spirituale, un cammino proprio fatto per l'anima, quindi una pulizia e una rinascita. E alla fine di questi 4 giorni io sognai dei ragni, e siccome io ho molta paura dei ragni, mi domandai il motivo, quindi la ragione di questo sogno. E dovete aspettare un pochino, perché in effetti, soltanto conoscendo Anna Maria Farabi, conobbi il significato, perché Anna Maria ha scritto un libro molto bello che è La tela di Penelope, il significato quindi della tela tessuta da Penelope mentre aspettava il suo sposo in viaggio, e quindi tutto il lavorio che c'è dietro il rapporto, dietro all'unione fra uomo e donna, dietro l'attesa, cosa che al giorno d'oggi tutto è così rapido che noi spesso ci dimentichiamo del valore dell'attesa, e quindi la tela era proprio questo. Piano piano, parlando con Anna Maria Farabi, quindi l'esigenza di aprire uno spazio in radio, e con lo spazio quindi di Bruxellando, la tela ha cominciato a prendere forma e si è espansa, anche perché noi pensiamo che la tela non siano altro che emozioni che noi raccogliamo attraverso quindi la radio, grazie al lavoro molto, molto bello, nascosto a volte, dei nostri amici poeti, scrittori, e queste emozioni noi le mandiamo on the air, quindi attraverso la radio, e diamo quindi valore a quello che è, le mandiamo al di là della radio, quindi la radio è un momento, è come se il ragno fosse in radio e queste onde venissero espanse. E allora ci siamo chiesti come potevamo dare anche più valore alla parola e dare quindi uno spazio dove il poeta non fosse soltanto accolto, ma avesse anche il tempo di esprimere il proprio modo di scrivere, con anche momenti di pausa, di riflessione, senza quindi tutta questa velocità nella quale viviamo dal mattino a sera. E poi ci siamo proposti comunque col filo rosso di iniziare questo percorso e poi di continuarlo lavorando quindi anche sul suono, perché la parola in sé, il significato che spesso si dà per scontato, invece non è così. Le parole hanno un loro significato, hanno un loro valore, però sono anche suono, perché noi quando parliamo emettiamo dei suoni. E quindi perché no, ci siamo detti, e poi ve ne parlerà Giulietta, continuare quindi questa esplorazione della parola, percependo invece quelle che sono le note della parola. E quindi direi che adesso lascio la voce a te, Giulietta. Quindi faremo questa ricerca soprattutto ogni terzo venerdì del mese, come ho detto prima, questo mese è un po' speciale, e in una puntata che si chiama Ik et nunc, qui e ora. Abbiamo scelto un titolo in latino per tirarcela da dotti, ma piuttosto per invece lasciare spazio a tutte le lingue, perché la particolarità della tela sonora in generale e di Ik et nunc in speciale è proprio quella di anche accogliere poeti di qua, di Bruxelles, o anche di varie origini intellettuali, fisiche, biologiche. Certo. Per cui questo progetto sarà fatto insieme in gran parte alla Troupe Poétique Nomade, che è un gruppo di poeti performatori erranti. Ma soprattutto a Bruxelles, che ci aiuteranno a esplorare questa parte effimera della parola pronunciata, diciamo in una specie di performance, e loro lavorano molto sulla parola come suono e anche da poco, da un paio di anni, cercano di fare un connubio fra musica e parola, per cui nelle loro performance spesso ci sono dei musicisti che improvvisano sul momento, accompagnando la voce di quelli che leggono o recitano. E la stessa cosa avverrà qui in radio, quindi voi e noi abbiamo la fortuna di ascoltare della musica che sarà in gran parte fatta sul momento, a livello tecnico, diciamo, con un campionatore, per cui riutilizziamo suoni che sono stati registrati. Mm-hmm. E questo sempre la troupe poétique che ci affiancherà per fare questo lavoro. Quindi ogni venerdì ci sarà, ogni terzo venerdì del mese ci saranno tantissime persone qui in studio, un po' a leggere, a seguire un percorso comunque tematico, e un po' a fare questi contributi musicali. Bene, direi che già abbiamo svelato due dei quattro passaggi. Un po' troppo, forse. Diciamo che era giusto presentare il nuovo programma e darvi un attimino a piccole dosi, quindi come pilloline serali, quello che è il nostro proposito. Sapete che la nostra filosofia è quella di essere sempre in viaggio. Noi iniziamo un viaggio e poi abbiamo sì alcuni obiettivi, ma non abbiamo una meta precisa, e soltanto viaggiando scopriremo dove andremo. E devo dire che questo è stato ottimo con Bruxellando, perché è stata un'esperienza molto bella. Vorrei ringraziare Mary D, Dani M e Georges Laurent, che adesso hanno lasciato al venerdì lo spazio alla tela sonora e sono invece in radio al martedì sera, sempre dalle 8 alle 9. Quindi vi salutiamo, vi auguriamo, quindi auguriamo loro un bel viaggio, che continui il loro viaggio, e nello stesso tempo oggi ci auto auguriamo di un buon viaggio e che questo viaggio vi possa anche soddisfare. Dicevamo prima che il filo rosso è forse il momento dove Anna Maria Farabi è più presente, perché è proprio il suo progetto, e questo richiede ad Anna Maria tutto un momento di riflessione, perché deve prepararsi e ogni volta con una pagina, e oggi leggeremo la prima pagina, abbiamo un ospite particolare. Questa sera abbiamo Michelangelo Camelliti, edizione Lieto Colle, uno scrittore molto attento, molto profondo. Lieto Colle è stato molto vicino a Radio Alma, perché sulla loro pagina, diciamo, web hanno sempre pubblicizzato la radio Bruxellando, e hanno partecipato anche alla Fiera Off nel 2008, quindi quest'anno nel marzo 2008, inviando poeti, scrittori. Ringraziamo in particolar modo Diana, che è sempre stata molto vicina a Bruxellando, inviando parecchi scrittori, personaggi molto, molto interessanti, molto validi, e ci auguriamo che ritorneranno presto qui in radio, alla tela sonora. E questa sera, quindi, come vi dicevo, abbiamo Michelangelo Camelliti. Adesso io ci terrei a leggervi una prima parte scritta da Anna Maria Farabi, seguirà poi una piccola introduzione, quindi una domanda che porremo a Michelangelo Camelliti, che leggerà invece Giulietta, proprio per darvi un suono diverso e quindi un ritmo diverso, e poi chiameremo Michelangelo al telefono e daremo a lui lo spazio di questa sera. Vediamo un attimino, magari anche di... so che Michelangelo ama parlare, quindi non sarà difficile averlo con noi e lasciargli quindi tutto lo spazio necessario. E quindi iniziamo il filo rosso questa sera. Quindi direi di iniziare. Apriamo quindi la prima pagina di questo percorso, di questo viaggio, di questo libro, del nostro di viaggio. Di Anna Maria Farabi. Tanto ringraziamo Anna Maria Farabi e Michelangelo Camelliti. Genova, 23 settembre. Notte, quasi l'alba, quasi. Non riesco a dormire. Il vicolo sotto questo piccolo appartamento è silenzioso. Ma gli oggetti, i libri, perfino il letto si spostano leggermente, oscillano, non mi permettono di dormire. Sono ospite qui nel cuore di Genova, sola nel cuore dell'Officina delle Piume. Nel cuore. E in questo rosso, cardiaco, dentro cui volteggia quella il bianco delle piume tra i voli trasparenti di infiniti, infiniti uccelli, sento il mio viaggio tra le tempie in una sonorità mischiata al linguaggio ritmico dei treni. Penso al mio viaggio profondo, ai segni, alle creature incontrate e vissute, da me ruminate e portate come una scorta per la traversata invernale, per la carestia, per la continuità del mio andare ovunque. Mi vengono incontro interiormente figure accese, intense, intime, parlanti. Michelangelo Camelliti, sì, ricordo. Michelangelo Camelliti, sì, ricordo. Mi chiamò al telefono. Una persona cara gli aveva fatto il mio nome. Mi chiedeva la mia poesia, che poi, forse un anno dopo, gli arrivò con il titolo Il segno della femmina. Che cosa in più degli altri dentro questo editore? E mi giro nel letto. La luce tra le fissure delle persiane mi tocca. Dunque, che cosa? oltre tanti libri da lui pubblicati che potrebbero essere liquidi e comporre un fiume, ciò che mi ha afferrata, piegata in meraviglia, è stata la sua lentezza nel predisporre la pipa in un cerimoniale di congiunzione alla creazione, al sentire l'artista ascoltandolo. Questa lentezza di accoglienza dentro cui ha inventato ponti tra l'arte e le creature, luoghi di assistenza e sofferenza, con il piacere del fare insieme. Penso a una notte di tanti anni fa, Milano, un ristorante, moltissimi attorno ad un tavolo, io al suo fianco. Mi dice: io amo la poesia, Rimbaud per esempio, che dopo aver vissuto una poesia tutta la notte, fonda come un pozzo, esce alla luce del giorno, via dalla società, dalle conventicole letterarie parigine, da tutti, corre solo, scalzo, su un prato verde, libero come il verde. Ecco, vorrei essere così. Nel suo così, finalmente, per un battito di tempo mi addormento, e nel sonno prima accade la mia voce, poi la sua. Ok, quindi adesso, prima di porre la domanda a Michelangelo, diamo quindi il tempo in regia, mandiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo di nuovo qua con Michelangelo al telefono. Ci sono radici profondissime nel tuo corpo, da cui è sorto, lentamente ma sempre più potente, un progetto di scrittura, internazionale come la Dieto Colle. A me interessano queste tue radici vibratili, perché sono la preistoria del tuo amore assoluto per la poesia e per le creature. Queste radici che nessuno può toccare e vedere, che ti creano terremoti emotivi e desideri e fatiche erotiche nell'inventare vie leggibili, fruibili tra artisti e opere. Queste radici elettriche, benedette o maledette. Ecco, adesso vi leggo la risposta di Michelangelo, poi lasceremo il microfono a Michelangelo. Credo che le radici che mi riguardano siano entro la terra, ma anche nell'acqua e appese al cielo. L'essere radicato in più elementi mi ha consentito di costruire una casa dove le stanze, il giardino, la veranda, sono come le città di Calvino, invisibili e perciò adatte a visite brevi quanto a lunghe permanenze. In Dieto Colle non è la struttura che fa la casa, ma chi l'abita. Prima che casa editrice, Dieto Colle ha voluto e desidera continuare ad essere casa, per chi passa solo a salutare, quanto per chi sente una comunanza intima con il progetto di una poesia, sempre centrale a se stessa, con l'unico compromesso del guardarsi negli occhi tra autore ed editore. Io sono infinitamente grato alle occasioni che mi hanno portato accanto a persone straordinarie, e tutti i visitatori di un giorno, quanto le persone care di una vita, hanno portato in dote a Lieto Colle il loro senso per la bellezza, la cui somma, verso dopo verso, libro dopo libro, è la vera ricchezza di Lieto Colle e probabilmente ciò che rende autentica la sua diversità. È vero, vivo intensamente le emozioni che mi danno le letture di nuovi talenti, quanto il ritrovare periodicamente poeti importanti che legano il proprio creare alle idee di Lieto Colle. Altrettanto ho sempre cercato di sviluppare un principio di poesia internazionale che nella traduzione consentisse lo scambio interculturale del sentire poetico come occasione di crescita della reciproca conoscenza e perciò della possibile amicizia. Confido sempre e da sempre nei risultati che un lavoro non urlato può originare in termini di persistenza della poesia, e per questa idea continuo a lavorare nella fiducia di poter esplorare qualche strada nuova, senza doverne accettare il compromesso dei bivi obbligati. Altrettanto confido per la piccola editoria, piccola solo per dimensione, continui a costituire un momento di sviluppo del sapere e del sentire in tempi ove anche leggere è divenuto consumo ed orientamento del gusto. Michelangelo, ci sei? Ci sono. Bene, direi che la tua risposta che abbiamo letto dà già un po' l'impronta di questa tua casa editrice, ma io ti vorrei fare anche un'altra domanda. Perché Lieto Colle? Perché l'idea di una casa che porta anche un bel nome, Lieto Colle, quindi un colle, un buon auspicio, lieto, quindi la gioia, l'allegrezza, l'armonia, la serenità. E tutto questo lavoro nascosto che io intravedo, perché quando tu dici non urlato è come se non fosse così detto, proclamato, ma c'è, esiste, e forse per questo ancora più sentito e più profondo. Raccontaci un pochino, svela ai nostri amici radioascoltatori la tua casa editrice, la tua idea di piccola editoria e il tuo grande personaggio, perché chi non ti conosce non lo sa, ma io ho visto le foto e ho sentito parlare di te, e quindi so che sei un uomo con un carattere profondo, che hai una tua sensibilità, non risparmi anche, se vogliamo, critiche, ma sempre costruttivo. Quindi svelaci un pochino il personaggio di Michelangelo della casa editrice. Ringrazio dei complimenti innanzitutto, forse non meritati. Comunque Lieto Colle sì, è un luogo, una casa, il nome è semplice, dolce e allo stesso tempo di riferimento. Ho sempre letto fin dall'adolescenza di tutto, ma soprattutto poesia, anche se non ho mai rinunciato certamente agli svaghi tipici della mia età, però ho colto le opportunità che la poesia, la lettura di una poesia mi dava. E questa lettura quindi ha sempre esercitato su di me un fascino profondo. La dimestichezza anche di tenere un libro tra le mani mi portava tante volte ad osservare il prodotto libro con occhi nuovi, e apprezzavo anche la cura con cui alcuni libri erano realizzati, e qualche volta ne acquistavo tantissimi. Anche indipendentemente dal contenuto, perché ero attratto dalla loro grazia. Ecco, questo è stato il primo innamoramento, sia della poesia come contenuto ovviamente, ma anche dell'oggetto libro. E via via si andava anche così delineandosi una, che poi si è consolidata in fondo, una passione quasi da bibliofilo. E dentro di me maturava appunto questa idea di realizzare un ambizioso connubio, contenuti di qualità in volumi, come io li chiamo, un po' da collezione, li chiamo libriccini da collezione. Ecco, Lieto Colle nasce quindi così circa 20 anni fa, per dare un po' concretezza a questa idea, che poi ulteriormente si è perfezionata nel tempo, anche con la volontà, minima o grande, questo non lo posso dire io, di contribuire alla diffusione della poesia, perché io ho individuato in questa forma espressiva non solo un mio gradimento personale, ma sinceramente rimango sempre incantato quando un solo verso mi consegna un mondo, e penso a mia volta, stampando dei libri di poesia, di consegnare un piccolo mondo attraverso il verso ad altre persone, al lettore. Ecco, l'inizio grosso modo è stato così amatoriale, leve di spinta sono stati appunto l'entusiasmo e la passione, elementi che comunque non sono mai venuti meno, anche quando questo sviluppo, diciamo, è diventato tra virgolette aziendale. Però ecco, da 5 anni circa la dinamica si è un po' evoluta, perché abbiamo anche così delineato. Tu hai citato prima il discorso delle traduzioni, la possibilità di creare punti di incontro nella poesia, momenti di aggregazione, ma dare anche la possibilità reale alle persone, agli autori, uomini e donne, di incontrarsi anche attraverso le traduzioni. Comunque la poesia, posso dire che è sempre stato uno spirito libero, soffia dove vuole, nei posti più inaspettati, per me è associato in questo paesino piccolo, Lieto Colle, nelle colline comasche, nemmeno un paese grande, una piccola frazioncina. Ecco, qui ho capito che poteva nascere un percorso che non è soltanto un percorso di lavoro, ma è un percorso di spirito per me, perché ho coltivato da sempre, dal primo libro, la cosa più importante, la convinzione, al contrario di tutte le apparenze, che la poesia delinea palpitante e forte l'incontro con le persone. Anzi, io sono convinto che, facendo anche un serio e libero ragionamento sulla poesia, oggi questa soltanto può aiutare a vivere in maniera serena un momento travagliato. È stato detto anche che da molti che non si dà forse alla poesia quell'importanza che merita, ma io penso che alla fine la fortuna della poesia sia anche quella di essere catartica, così ristretta per pochi intimi, perché la poesia non è probabilmente per tutti, e per chi la cerca, per chi vuole, come diceva un libro della Bisutti, salvarsi la vita. Forse non salva realmente la vita, però sicuramente aiuta molto, aiuta molto. Di cos'altro vuoi che parli? Perché io poi posso parlare anche per un paio d'ore, ma rischierei anche di annoiare. Ecco, Michelangelo, io mi presento, sono Giulietta. Io avevo parecchie questioni, parecchie domande in realtà. Adesso una che in realtà non era per niente in programma, però mi è venuta in mente ascoltandoti, è, parlavi della zona delle colline del Comasco, e in realtà i tuoi libri, i tuoi figlioli sono anche delle opere di artigianato, sono, e quindi mi chiedevo se è un artigianato anche di zona, se vengono manufatti anche in parte lì. O no? Anche no, eh? Diciamo che il libro, così come viene costruito da me, è un libro particolarmente curato, perché forse si riverbera anche la particolare attenzione che io do e voglio dare al contenuto, quindi sì. una forma sì. quasi di rispetto, ma sicuramente non è pratico fare questo lavoro artigianale perché è molto impegnativo, ma sicuramente ormai è la forma Lieto Colle, viene riconosciuto per questo tipo di manualità. Di cura. Sì. È anche bello, in fondo, trovarsi un oggetto particolarmente graziato tra le mani. Annusare anche l'odore della colla, la cordonatura particolare, la funzionatura secco, sono tutti aspetti, l'incollo manuale delle immagini, sono tutti aspetti che comunque denotano il rispetto per il contenuto che c'è in quel libro. Sì. Che, come mi è sembrato di capire che tu, quando parli degli autori, degli scrittori, anche sembra quasi che tu parli di un artigiano, perché questo discorso della meticolosità, della cura del dettaglio, viene spesso fuori quando parli di poesia anche. E, sì. Cosa dici? Non dico amo, perché mi sembra un po' eccessivo, ma io ho molta stima, molto affetto nei confronti dei miei autori. Ritengo che loro sono il mio reale patrimonio. Mi hanno dato moltissimo in questi anni e con molti ho relazioni affettuose, di amicizia che durano nel tempo e vanno oltre il semplice rapporto che può esistere tra un editore e un autore. Riesco a ricevere molto, non so se poi a mia volta riesco a dare molto, ma sicuramente se la poesia come l'ho concepita io sotto Lirio Colle nasce e cammina per vera passione, devo dire che allora quello che io ho letto di Rimbaud e quello che io ho letto di tanti altri autori probabilmente non è stato vano. Ecco, io penso che il rapporto con gli autori debba essere sinceramente chiaro, sinceramente sereno. Non ho mai pensato di fare, perché qui bisognerebbe poi fare degli incisi particolari sull'editoria a pagamento, sul mercato del libro che finanzia e diventa così un'attività redditizia e quant'altro. Io penso di non aver mai fatto, neanche in questi momenti fortunati, un'attività di mercato commerciale. Ho cercato di ragionare sempre anche e soprattutto sull'utilità del catalogo, sull'utilità della proposta, tant'è che quando decido di fare un libro dico non faccio un libro ma avvio un progetto con questo autore che è anche un progetto umano molto importante per me. Diciamo che quella che io definisco la piacevole gestione dell'autore è un rapporto personale, vivo, continuato, che desidero anche prorogare e consolidare nel tempo, perché quale ricchezza principale di Lirio Colle questa è, significa anche la comunicazione, sono ore quelle che io investo, ecco, non dico spreco, investo personalmente con i miei autori, ma anche con i miei collezionisti, quelli che acquistano i libri, perché non credo di creare stupore con queste mie affermazioni. Io penso che molti hanno sperimentato e sperimentano quello che io sto dicendo adesso, l'importanza di un incontro. Ecco, questo rapporto post pubblicazione, dopo la pubblicazione, ritengo che un editore in qualunque situazione, ecco, debba soprattutto mettere davanti questo aspetto. Sarò felice sempre di non dover chiedere al mio autore particolari sforzi se non quello della sincerità, dell'essere realmente sincero e sereno come io lo sono quando avvio un progetto con, ma anche quando con un non poeta. Lo avvio, perché ci sono anche tanti progetti che non vanno in porto, tante risposte negative, perché probabilmente una certa raccolta non quadra con i miei gusti, insomma, ma dandogli una risposta precisa, articolata e serena, mi rincontro nel tempo poi con questo autore e penso che, anzi non lo dicono spesso anche loro, sono situazioni che poi vengono ad essere positive perché la mia risposta un po' li ha aiutati. Infatti io mi ricordo ancora la prima volta che andai a Roma, non sono un grande viaggiatore, la bellezza della città che mi aveva incantato, l'essere sconosciuto in questa presentazione dove si presentava non un libro ma la Lirto Colle, sì. Mi ricordo l'azzeccato titolo che diede questo mio amico poeta che aveva organizzato l'incontro, stampare o pubblicare libri ed essere felici. Ecco, per me è la sintesi di tutto il mio lavoro. Poi ogni tanto ci giro anche attorno, ma vedo che proprio il cuore pulsante vivo è questa cosa qui. Mi ricordo anche molte lettere che mi arrivano e mi ricordo una che ho qui sulla mia scrivania appuntata perché è il filo su cui tesso la mia tela, che mi diceva, era Natale, questa collezionista, poetessa a sua volta, ecco, i miei poeti sono anche i miei principali collezionisti, quindi questo filo che percorre è fatto anche di vari sentimenti e di varie persone che sono soprattutto i miei autori che riescono a contattare tanti altri lettori che poi diventano a loro volta nuovi collezionisti e via via questa catena esattamente sempre più e infatti questa è la tela mi ricordo che a Natale mi diceva questa signora vorrei regalare poesia come quella che pubblichi tu da anni in modo così speciale ed eroico, tralasciando l'eroico lo speciale sento mi appartiene, ecco, vorrei regalare a chi mi è più caro alcune delle giovani voci che Lirto Colle ha battezzato e che mi sono piaciute. Regalare poesia non è romantico, regalare versi è invitare chi si ama ad una forma alta di resistenza e aprire una finestra che fa girare un po' d'aria pulita e offrire una qualche via di scampo al limite che i nostri giorni hanno e invitare chi ci è vicino al rischio di uno sguardo altro, ad uno strappo di filo consueto che lega le nostre ore. Ecco, io a questa autrice sono sempre stato grato di questo messaggio in bottiglia e questa riflessione continua che faccio su questa lettera e su lettere simili per me diventano momenti anche di intenso rapporto anche poi con gli autori e con i miei autori, è un incontro fortuna con la poesia e io credo che la poesia abbia fortuna proprio da questi momenti, da queste persone e nella mia piccola esperienza di editore, piccolissimo, minuscolo, ho l'impressione che la poesia possa trovare fortuna al di là proprio delle leggi di mercato per queste condivisioni, sì, sì. Al di là della firma di autorevoli autori, trovare forse il suo motivo di esistenza, perché non venga meno ad alcuni semplici momenti e condizioni, perché non si può fare poesia con qualsiasi cosa, io di questo ne sono fermamente convinto. E la poesia, sono anche fermamente convinto, non si presta a tutto, ha degli scrupoli la poesia. Sì. Ecco, Lirto Colle, io, Michelangelo, da anni mi ostino a credere, non solo nei benefici della scrittura, ma anche nell'esigenza di ascolto dei suoi fruitori. Ed è importante questo. Voi quale urgenza intellettuale, ma diamogli poco conto a questo, voi quale necessità umana, ecco, a questa diamogli importanza. Sì. È uno dei motivi che secondo me ha permesso a questa piccola, piccolissima, minima casa editrice di crescere. Infatti, di confrontarsi, d'altra parte, grazie a quei pochi investimenti, insomma, che ho, io faccio anche il cartolibraio, e che diciamo molto hanno però a che vedere con il fare poetico. Ecco, per Lirto Colle il fare poetico significa non lo so, forse continuare a farsi domande di senso, dimostrare quanto e come io sappia cosa sia un desiderio, però non saprei mai spiegarmi altrimenti, se non è appunto desiderio di avvicinarsi a qualcosa che può essere salvifico, le tante persone che vengono agli incontri di poesia che organizzo, le tante persone che incontro, le tante persone con cui parlo. Ecco. Sì. Michelangelo, io vorrei... La dinamica delle manifestazioni è evidente, ho notato uno spostamento delle persone verso Vieto Colle, verso quello che fa, ma io penso che lo fanno anche per l'entusiasmo con cui Vieto Colle le fa, perché quando facciamo delle cose che sono rivolte alla lettura, all'ascolto, rivolte non tanto al vendere libro, ecco, viene percepito l'entusiasmo, la gioia. Allora, volevo infatti tornare su questo aspetto del rapporto con gli artisti che pubblichi, perché è proprio grazie a questo rapporto sincero che tu sei qui con noi questa sera, perché sei sulla prima pagina di Anna Maria Farabi, costituisci, diciamo, la prima pagina del suo percorso. E quindi ti volevo chiedere, Michelangelo, se hai voglia di presentarci Anna Maria, la sua poesia o la persona, con qualche parola tua, personale o professionale, come vuoi tu. Io Anna l'ho incontrata in maniera fortunata e improvvisa. Sì. Anna l'ho conosciuta come persona, l'ho amata come persona perché nella sua semplicità è squisita. L'ho amata e l'amo come poetessa, come scrittrice. L'unica cosa che posso dire di Anna Maria Farabi, che penso può riguardare anche la sua poesia, è che è una rosa, però una rosa particolare, una rosa blu, a cui è difficile manchi il colore e manchi il profumo. Io altro non vorrei dire, perché per me è un'immagine questa che può racchiudere tutto. So che una rosa blu è rara, difficile, quasi da sogno, e io tengo a questo sogno particolarmente e alla sua poesia che rappresenta i miei sogni. Quindi altro non direi, direi però che la fortuna che ho avuto di incontrare Anna Maria e di aver incontrato in questi anni tante altre persone, anche i giovani autori che pubblico, gli autori più illustri, quelli conosciuti, quelli che io chiamo fragoloni, hanno rappresentato, chi più, chi meno, per me un costante arricchimento. Rappresentano il mio patrimonio. Un uomo ha bisogno di incontrare persone e di confrontarsi con le persone in maniera serena. Io ho avuto questo privilegio, Vieto Colle è stato un mezzo che mi ha permesso di ottenere questo, e io sono grato a Vieto Colle per avermi dato questa possibilità. Per quanto riguarda quello che è il mondo della poesia, io cerco di, come avete letto in quell'intervento che ho scritto alla domanda di Farabi, io cerco di seguire il mio sentiero senza farmi coinvolgere da particolari distrazioni. so che è un mondo difficile dove prevale così un certo narcisismo, si vedono a volte delle gare, sì, certe volte anche patetiche, dove io ho venduto di più, tu hai venduto di meno, io ho avuto questa recensione, tu, è una sorta di allegoria delle medaglie che uno si mette sul petto, ma io ritengo che proprio perché mi pare che ha vinto il Nobel per la letteratura un autore francese che io non conoscevo, ho ordinato il suo libro, quindi significa che non è importante l'essere così esposti, anche se qui da noi in Italia prevale questa forma piramidale dove le posizioni, diciamo, di visibilità e di privilegio debbano prevalere ad ogni costo perché garantiscono dei benefit particolari. Io queste cose le ho dette anche pubblicamente, non certo creandomi delle simpatie, però io penso che dovrebbero avere certamente magari non simpatia, però ecco, rispetto per il lavoro che faccio con coerenza. Non scendere a compromessi per me è importantissimo, e pubblicare chi voglio pubblicare perché mi piace ritengo che sia altrettanto importante. Posso fare tantissimi sbagli come editore e come uomo, però se sbaglio lo faccio in buona fede, e ritengo che questo sbaglio fatto in buona fede sia non una distrazione ma un atto di fede nei confronti della poesia e delle mie percezioni, del mio sentire intimo. Io vivo di questo, non ho bisogno poi di tanto altro, e su questo baso una distrazione e un mestiere che è costruire libri. Costruire libri e darli in lettura, sperando che quello che io ho ricevuto possa averlo un altro. Sì. Michelangelo, siamo qua ad ascoltarti, veramente ti abbiamo lasciato tutto il tempo per esprimere questi tuoi sentimenti, e devo dire che ci hai, come dire, lasciato la bocca aperta, nel senso che è bello starti ad ascoltare e ci farebbe anche piacere continuare. E purtroppo non sarà strano, come hai detto, mi hai chiamato prima del tempo, meno male che l'ho fatto, perché tra qualche minuto dobbiamo chiudere la nostra trasmissione. Quindi diciamo che se tu sei d'accordo, come era l'intenzione anche di Anna Maria, questa prima pagina potrebbe essere chissà magari la prima pagina di un libricino, e chissà che la nostra tela sonora non diventi un libricino. Staremo a vedere. Diciamo che sì, questo momento che abbiamo avuto adesso, sì, con questo collegamento, facciamo che diventi un luogo di riflessione, ma non un luogo cupo, triste, diamine, che sbocci davvero l'allegria, perché la poesia non è tristezza, è felicità immensa, e chi davvero la vive con questo sentire riesce ad essere poi vivo, ed essere vivi oggi è importante. È importante perché si riesce a trasmettere a chi ci sta accanto davvero qualcosa di utile, di sì, utile, perché sì, l'utilità nell'essere vivi dentro è dato da piccole cose. La poesia è sì una grande cosa, possiamo anche parlare della poetica di Aristotele, oppure andare a collegarci alle varie linee dantesca, petrarchesca, tutto quello che ha fatto la poesia a quella del Novecento e via andare, però dobbiamo capire che scrivere è importante anche non conoscendo le regole. si scrive innanzitutto per se stessi. Sì. Probabilmente si scrive per esorcizzare qualche cosa che dentro ci fa male, ci preoccupa, ma quando questo esercizio viene fatto si rinasce ed è un moto di felicità immenso che riesce a contagiare altri. Anche la lettura. Mi sembra, Michelangelo, che lì deve essere felicità. Quello che parla è piuttosto il poeta piuttosto che l'editore, perché questa cosa di introspezione. Sono il peggiore poeta che ci sia in circolazione. Verificheremo questa. Verificheremo questa informazione. Michelangelo, ti dobbiamo salutare, ti diamo un grande abbraccio virtuale in radio. Siamo sicure che i nostri radioascoltatori si riascolteranno la puntata. Ti stavo dicendo che i nostri ascoltatori ti riascolteranno sul podcast, perché noi usiamo poi salvare la puntata su un sito particolare qua di Radio Alma per dare la possibilità quindi anche in un tempo futuro di riascoltare. Quindi ti dobbiamo purtroppo salutare perché tra un minuto chiudiamo la trasmissione. Ti ringraziamo, rimaniamo in contatto e ti facciamo tutti gli auguri per te, per Diana, per Colle, per i tuoi libricini, e ti ringraziamo veramente di cuore. C'è Giulietta qua vicino a me che sorride, tu non puoi vedere i nostri sorrisi, ma che ti giunga questo nostro sorriso. Un abbraccio forte. Benissimo. Allora, cari amici. Ciao Michelangelo. Cari amici, vi volevo dire che la musica che avete ascoltato è stata la musica di Mario Bellavista, che insieme a Giampaolo Casati, a Mark Abrams e Mimmo Cafiero ha praticamente sviluppato, quindi eccetera eccetera. Due parole per parlare di Mario Bellavista e soprattutto una specie di poesia che lui ha scritto proprio nel suo come nella copertina del suo CD. I sentimenti che si dissolvono col tempo, rimangono cristallizzati nella musica che hanno ispirato, sono i più vari: ansia, felicità, noia e tristezza. E sono pensieri, ricordi che oggi, grazie a tre grandi artisti, ho potuto mostrare in pubblico. Grazie a Mimmo, Giampaolo e Mark per aver interpretato al meglio la mia musica. Grazie anche a Stefano Amerio per la pazienza e la professionalità. Grazie ai miei genitori che, oltre ad avermi dato la vita, mi hanno permesso di diventare un musicista. Bene, noi Mario ti ringraziamo perché abbiamo ascoltato un pezzo del tuo CD, Mario Bellavista 4 Friends. Adesso non so se abbiamo ancora il tempo per ascoltare un pezzettino. Sì, mi fanno cenno di sì dalla regia, quindi sarà il nostro modo per salutarvi. Devo complimentarmi quindi con Giulietta. Questo primo venerdì abbiamo già tessuto due piccoli segmenti. Sì. Un musicista e un editore poeta, forse, sì, da verificare, che sono stati i nostri ospiti, e noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Un bacio a tutti, ciao! Ciao!